capanni stesi sulle strade di Burano, come vagoni appesi a un filo di uno stesso treno, tra i balconi furtivo sguardo la tua mano. Da come cammino si capisce che ti amo, è di acqua il nostro mare, il nostro inferno. Con le fiamme ci scaldiamo tutto l'anno. Hai per caso incontrato giorni migliori? Mai vissuto ad occhi aperti? Mai sognato in piedi? Tra i calli più stretti di Venezia si respira la laguna, non c'è mai fretta, delle barche approdano dal Lido. Pescatori non sprecano mai il loro fiato. Thomas Mann, Thomas Mann, gondola maestro, mentre Igor suona la tromba all'ombra di un cipresso, all'Harris Bar Hemingway strozza un cappuccino, allungando la sua vita con un whisky sempre pieno. Nerone ha bruciato Roma e tutti i suoi altarini, Visconti ha ridisegnato l'anima di Venezia, i suoi confini. I gatti sono principi che regnano nelle isole dove uomo non arriva. L'intuizione ha le sue eliche. Ricorda, ricorda che l'estate ha un fiume in piena. Poi quando il freddo arriva, il ghiaccio entra in scena, né Vivaldi, neanche Wagner ti potranno consolare, quando l'acqua sempre più alta soffoca il tuo cuore. L'amore immaturo ti ama ad occhi chiusi, invece chi ha gli occhi aperti avanza a passi decisi. Il tempo è una tortura per colui che teme amore. L'amore è una fessura, basta chiedere la chiave. Se non puoi essere a Torcello, allora vai a Murano. Non è il posto che farà di te un altro uomo, un altro destino. Sotto il ponte di Rialto o in mezzo al cuore del Canale Grande, lascia sempre un po' di spazio a chi nuota con la mente. Ricorda, ricorda che l'estate è un fiume in piena.